Steve a mis au point différents réservoirs. Et ci sono novità anche sul Heute Journal mit Klaus-Peter Siegler. La finestra sul cortile di Riccardo Chiaberge. Rieccoci, ultima puntata del 2009 della finestra sul cortile, tempo di bilanci, guardiamoci un po' indietro, riascoltiamo alcuni estratti delle puntate più significative della nostra trasmissione. Il 10 ottobre è stato nostro ospite il professor Emilio Gentile, storico del fascismo, e con lui abbiamo parlato di Hitler, del dittatore tedesco, ma visto in una luce particolare, come artista, perché era un pittore dilettante. Bertolt Brecht lo chiamava sprezzantemente l'imbianchino, ma lui si credeva davvero un grande artista, e proprio questa passione per l'arte sarebbe all'origine del suo delirio di onnipotenza. Una storica dell'arte tedesca, Birgitte Schwarz, ha scritto un libro, Pazzia geniale, Hitler e l'arte, e in cui appunto ricostruisce questa genesi, insomma, della follia hitleriana nel suo genio artistico frustrato. Si sa che l'Accademia d'Arte di Vienna non lo ammise ai propri corsi, e forse questa bocciatura gli pesò per il resto della vita. Purtroppo questo aspetto della personalità di Hitler è sempre stata trascurata dagli studiosi del nazismo, per esempio Jan Kershaw, mentre invece la Schwarz sostiene che proprio la causa primaria della volontà di potenza di Hitler risiedeva proprio nel suo amore ossessivo per l'arte. Non tutta l'arte, ma insomma soltanto quella classica, perché l'arte moderna lui la considerava arte degenerata. Del resto, che il dittatore tedesco considerasse l'arte estremamente importante lo aveva notato anche l'archeologo Ranuccio Bianchi Bandinelli, che nei diari studiati dalla Schwarz racconta di aver dovuto accompagnare il Führer per ore e ore tra statue e monumenti durante la sua visita romana nel 1938. Un tempo esagerato dedicato ai musei che fece innervosire perfino il padrone di casa, Benito Mussolini. Abbiamo chiesto al professor Gentile se concorda con le tesi di Birgitte Schwarz. Beh, se formulata in termini così netti, la tesi non può convincere, perché non si può spiegare con una sola causa quello che è stato il fenomeno molto complesso di Hitler e del nazionalsocialismo, ma la storica dell'arte ha certamente ragione nel ritenere che non si può capire Hitler e il nazionalsocialismo senza tener conto di questa originaria passione di Hitler per l'arte, che non lo ha mai abbandonato fino alla fine. E certamente hanno torto quegli storici o biografi che pensano di poter occuparsi di Hitler come una specie di politico puro, prescindendo da quelle che erano anche le sue ambizioni artistiche, che ebbero un ruolo fondamentale nel costruire non soltanto l'architettura del Terzo Reich, che fu direttamente ispirata da Hitler, che si servì di un giovane architetto come Speer, che era per lui la sua longa manus, ma che ebbe un'importanza fondamentale per tutto lo stile, la liturgia e anche la monumentalità transitoria, per così dire effimera, delle grandi organizzazioni di massa, che però ebbero un ruolo fondamentale nella politica nazista e nella politica di Hitler. Attribuire però a questa sua passione l'origine di tutta la sua follia politica mi pare un po' eccessivo, anche perché forse dovremmo dire allora, se quei professori fossero stati un po' più clementi e l'avessero promosso all'ingresso dell'Accademia, la storia del mondo sarebbe cambiata. Ecco, a volte tutto può succedere naturalmente, anche in questo caso, ma non si può dimenticare però che ciò che è importante non è tanto il fatto che Hitler fosse l'unico dei capi totalitari che pretendeva di essere un artista, ma che tutti i capi totalitari, e soprattutto Mussolini e Stalin, vollero personalmente intervenire nel decidere quale dovesse essere lo stile artistico del loro totalitarismo, con una differenza fondamentale: che Hitler e Stalin avevano una propensione ottocentesca per il primato del classicismo e del realismo, mentre Mussolini aveva avuto una frequentazione con l'arte d'avanguardia, con il futurismo, ed era più propenso invece ad accettare un sincretismo artistico che desse più spazio all'arte e all'architettura moderna. Ecco, questo mi sembra lei ha toccato un punto fondamentale, che del resto lei ha approfondito nel suo libro sul futurismo come movimento politico. Ecco che in Italia c'era questa connessione, insomma, tra modernizzazione, quindi anche intesa con dei movimenti come era per l'appunto il futurismo, che promuovevano, no, una visione del mondo estremamente di rottura, insomma, con la tradizione e col passato. Invece per Hitler tutta questa era arte degenerata. Noi sappiamo che per Hitler, lo confessa lui stesso più volte nelle sue conversazioni con l'artista prediletto, l'architetto prediletto Sperchi, i suoi gusti estetici si erano formati nel periodo giovanile, ai primi del Novecento, e riflettevano sostanzialmente il gusto borghese della Vienna del primo Ottocento, del Novecento e della Monaco del primo Novecento, che però a loro volta riflettevano il gusto artistico tra rinascimentale, romantico e classico dell'architettura nazionale tedesca durante tutto il corso dell'Ottocento. Hitler, per i suoi gusti artistici, è un uomo dell'Ottocento che cerca di perpetuare questo che lui considera il massimo delle espressioni artistiche raggiunte dalla civiltà umana, cioè questa sorta di monumentalismo classico, sì, di perpetuarlo anche nella Berlino dell'era nazista. Ma è interessante la citazione che lei ha fatto di Ranuccio Bandinelli. In un mio libro, Fascismo di Pietra, io documento che non fu tanto annoiato Mussolini, ma più importante fu che Hitler volle poi ripercorrere in visita privata con Ranuccio Bandinelli i principali monumenti. E sa cosa disse? Nel Colosseo lo guardò stupito, rimase per mezz'ora e poi disse: ma perché non lo ricostruite? E quando si recò al Pantheon lo guardò affascinato e disse: lo costruiremo a Berlino e sarà ancora più grande. E furono progetti che poi lui effettivamente cercò di realizzare in quella che sarebbe stata la nuova Berlino della grande Germania nazista. Noi ringraziamo il professor Gentile, a presto. Grazie a voi. E restiamo in tema di arte e psiche per parlare invece di un grande pittore, William Turner, nato nel 1775 a Londra e morto nel 1851, a cui la Tate Britain ha dedicato una mostra, Turner and the Masters, Turner e i maestri, che si concluderà in gennaio. I maestri dell'esposizione non sono solo i contemporanei dell'artista, ma i grandi pittori dei secoli successivi, perché quello che emerge dai rilievi fatti dal curatore David Solkin è un carattere terribilmente competitivo di Turner, forse dovuto anche alle sue umili origini, perché aveva dovuto fare una fatica enorme per emergere, proprio perché era nato da famiglia povera. La sua carriera folgorante sarebbe stata mossa da un senso di rivalsa che lo fece diventare una superstar del mondo artistico del suo tempo, e pare che il suo peggiore nemico, il suo vero rivale, fosse John Constable, un altro grande artista del tempo che in alcune mostre organizzate dalla Royal Academy a Londra si trovò in diretta concorrenza con lui. Per esempio, nel 1832 Constable aveva dipinto The Opening of Waterloo Bridge, l'apertura del ponte di Waterloo, in cui spiccavano tonalità di rosso molto vistose che attiravano l'attenzione dei visitatori. E quando Turner si accorse che un suo quadro sarebbe stato appeso proprio accanto a quello di Constable, e nel suo quadro c'erano solo colori terrosi, colori così più spenti, subito dipinse una piccola boa rossa in mezzo al mare per colpire e attrarre l'attenzione dei visitatori e far distogliere loro lo sguardo dalla tela del concorrente. Ma perché era così cattivo Turner, era così invidioso dei suoi rivali, dei suoi colleghi. Ne abbiamo parlato con il critico d'arte Philippe Daverio, che ci racconta altri casi di competizione tra artisti. La cosa sta un po' così: se non sempre homo homini lupus, quasi sempre pictor pictore lupus, cioè il pittore sì. È un lupo per l'altro pittore, il creativo. Attenzione, quelli medio-bassi artigianali no, perché trovano nella consorteria un sostegno. Appena uno va nell'alto, sì. E andare nell'alto vuol dire faticare, vuol dire mordere, vuol dire difendersi, certo. E uno diventa un samurai. È obbligatorio diventare famosi, però per diventare famosi ci vuole l'animo del samurai. Il samurai fa fatica a tollerare l'altro samurai. Deve farsi largo a sciabolate. Certo, perché il suo mestiere è proprio quello, ma così i direttori d'orchestra, attenzione, così gli architetti. È difficile trovare un architetto di oggi che parli molto bene dell'altro architetto, a meno che non sia suo compartecipe. Cioè, dov'è che diventano buoni i pittori? Quando fanno gruppo. Negli anni in cui Picasso lavorava con Braque non parlava male di Braque, no? Certo. Ma quando poi Picasso gli chiesero chi era, per esempio, Kokoschka, e lui disse: se qua Kokoschka, la cocaina. Addirittura. Per tutti gli altri erano dei cani. E lo sfotteva, sì, insomma. Lo sfotteva, cioè, o sei pari o non esisti. La descrizione, cioè, per esempio, De Chirico, che era il più feroce di tutti, finiva con l'amare dei pittori molto mediocri. Dice: ah, qual è il più grande pittore? Dice De Chirico: è Schiltian. Perché si capiva benissimo che la concorrenza non poteva esistere. Ecco, ma queste rivalità sono la dannazione per chi deve organizzare e allestire una mostra, insomma, perché deve stare ben attento, molto, insomma, come... È molto farli convivere. Allora è più facile far convivere quelli che sono ancora un po' in crisi, che certo. Non ce l'hanno fatta fino in fondo. Oppure bisogna dire: guarda, ci sei tu, ma hai la stanza più importante e gli altri sono una sorta di condimento ai tuoi piedi, sono la Beilage di un buon ristorante tedesco, cioè tu sei l'arrosto, poi ricordi sono i fagiolini, i cavolini di Bruxelles e le patatine. Allora lo può accettare. Ma tendenzialmente il grande artista è competitivo. Attenzione, la competizione gli serve anche psicologicamente. Pensa per esempio al percorso michelangelesco, no? Certo. Michelangelo ha un nemico storico, psicologico, assoluto che lui deve sorpassare, e che è ovviamente che è Botticelli. Cioè sì. Tutto ciò che Botticelli è leggero, effeminato, è vaporoso, lui lo dovrà contraddire con la muscolatura, con l'impegno, e ogni volta che fa una cosa grandiosa, come dice il mio amico Strinati, dice: e ti è a Botticelli. Ti certo. Ho pregato. Sono tutti così, cioè è normale. Che quindi avere un modello con cui confrontarsi poi alla fine stimola la creatività, e dopo tutto quelli che ci guadagnano sono siamo noi, insomma, che abbiamo delle opere d'arte più belle, insomma, forse se non ci fosse, se non si scannassero non verrebbero fuori così. Poi ci sono sì, no, guai a non averli egocentrici, diventerebbero delle sardine. Appunto. Ecco, poi ci sono i casi invece della rabbia per le esclusioni. Pensiamo alla mostra Italics che c'è stata di Bonami, no, a Venezia, che ha suscitato tutte quelle polemiche, perché tutti hanno detto: ma come, io non ci sono, invece c'è quell'altro, no? Sì. Gelosie di tutti i tipi. Sì, ma lì dipende, la rabbia dell'esclusione e non è dei grandi. Perché per esempio nel caso della mostra di Bonami fu sintomatico che il grande diffidò di includerlo. Gianni Cunelli disse: guardate, anche io vi diffido di mettere una mia opera in quella mostra perché non voglio stare in quella compagnia, quella roba lì non mi interessa, io sono al di sopra delle parti. Mentre quello un poveretto, un po' più in petizione, dice: come, me non mi ha messo, allora sono morto. E quindi Cunelli si è comportato un po' stile Turner, diciamo. Cunelli si è turnerato. Ecco. Cunelli deve turnerare. Perché è un grande, ecco. Noi li vogliamo così. Bene, noi li vogliamo feroci, convinti e cattivi. Della loro superiorità e pronti alla discussione. Bene, grazie a Daverio, a presto. Cattiverdi, ciao. Alla prossima. Il meglio della finestra sul cortile ritorna tra poco dopo le informazioni sul traffico. Restate con noi. La finestra sul cortile. Riprendiamo la nostra puntata della finestra sul cortile riproponendovi altre due interviste andate in onda nei mesi scorsi. E passiamo dalla pittura ad altre forme di espressione, la poesia e la musica. I libri di poesia rappresentano un'editoria di nicchia che vende purtroppo poche copie, ma i festival di poesia invece hanno un grande successo di pubblico e molti cantautori pubblicano i testi delle loro canzoni in forma di libro. Dunque, forse la poesia è meglio ascoltarla che leggerla. La poesia ha ricevuto una specie di scialuppa di salvataggio dalla musica contemporanea, perché c'è un processo di appropriazione da parte dei cantautori e dei musicisti contemporanei che restituisce la poesia alle sue origini orali. Tra i cantautori italiani spicca Roberto Vecchioni, che proprio nel suo ultimo lavoro, Incantus, esprime la contaminazione tra poesia e musica. Ascoltiamolo in questa intervista a Radio 24. La faccenda della resistenza della poesia è annosa. Mi ricordo un articolo di Montale in cui proprio Montale diceva che non morirà mai la poesia, non importa se si arriva a 2000 copie al massimo. Ci sono delle ragioni a questo, perché a volte la poesia sembra qualcosa che, a parte che sono pochissimi quelli che veramente si bevono, si mangiano, si adorano i libri di poesia, ma poi sembra quasi una spesa inutile comprare un libro di poesia. È come se tutti noi pensassimo: tanto la poesia me la scrivo io, il che non è vero assolutamente, perché ci vogliono i poeti per fare la poesia, che sono degli esseri particolari, strani, baciati da Dio, dalla natura, che hanno il senso dell'altra faccia della moneta, ecco, quelli che vedono con occhi diversi. Ecco, ma ci sono anche i poeti che, come lei, sono anche cantautori e musicisti, insomma, no? Cioè, che cercano di coniugare generi diversi, di fare delle contaminazioni. Una di queste è questo Incantus, no? Che è un suo nuovo CD. Potrebbe spiegarci che cos'è? È una ricerca spirituale che però presenta un uomo in carne ed ossa, un uomo fatto di sangue, viscere, midollo, eccetera, che però si rivolge a qualcosa che vada oltre la chimica e la fisica, cioè qualche cosa in cui possa essere inserito un perdono alla sua solitudine, un aiuto in qualche modo, diciamo Dio, dai, facciamo così e facciamo prima, che sarebbe anche più giusto. E questa è una ricerca mia personale, se vogliamo, ma che poi io ho trasmesso in terza persona in questo disco, e ho scelto per questo disco melodie immortali di musicisti come Rachmaninoff, come Tchaikovsky, come Rossini, come Puccini, ce ne sono parecchi, sui quali inopinatamente sono andato a mettere delle parole, forse anche con un po' di presunzione, se vogliamo, ma ho tentato di non intaccarli, di lasciare la meravigliosa impressione della loro melodia sotto, e di parlare di uomini proprio quelli tipo Inferno Dantesco, uomini di questa terra, uomini che hanno continuamente speranza che cambi qualche cosa, che succeda qualcosa, quindi non le solite favole fritte dell'amorazzo gentile, dell'amorazzo doloroso che va e viene e fugge, ma cose serie, cioè gli uomini davanti alla domanda: io finisco qui o qualcosa succede dopo. Ma lei è credente, Vecchioni? Io sì, sono credente, ho già detto altre volte che sono un ateo credente, che è ovviamente uno simolo, e in realtà sarebbe più giusto dire che sono un credente, un ateo sperante, sono un illuminista per sì, costruzione, sì. È naturale che lo sia, pieno di dubbi e tutto quanto, però la fede è un dono straordinario, ce l'hai o non ce l'hai, si vede che Dio me l'ha data e lo devo ringraziare per questo, ma è anche un peso tremendo, non è soltanto un dono. Ecco, ma c'è un rapporto tra la poesia e il sentimento del divino? Cioè, un poeta ha più possibilità di entrare in dialogo, insomma, con questa entità che sta oltre la nostra esistenza? Sì, ci sono un sacco di poeti atei, ma in realtà la maggior parte dei poeti hanno un senso altamente numenico della vita, spiritualista, c'è qualcosa oltre, e già nello scrivere poesia, che è qualcosa di fintamente etereo ma di veramente reale, il poeta riesce a cogliere dei significati della vita che noi esseri normali non riusciamo a cogliere, quindi il poeta è uno spiritualista per sua scelta, o anzi per natura, e bisognerebbe ascoltarli molto di più. Ecco, ma torniamo a parlare, insomma, della diffusione della poesia nella società di oggi. Insomma, il fatto che in libreria i libri di poesia vendano così poco sembra contrastare con un altro dato ugualmente appariscente, cioè le folle che accorrono per le recite di Benigni o di Vittorio Sermonti che recita Dante, no? E che riempiono le piazze, le chiese. Insomma, e come mai? Allora vuol dire che la poesia è meglio ascoltarla che leggerla? No, io credo di no. Io penso che lì c'è innanzitutto il grande classico. tanto, certo. Manzoni, e quindi il classico è già fa numero a sé. Poi c'è il grande personaggio, Benigni è un personaggio, è naturale, ma la pletora, l'infinito numero di poeti che sono scarsamente conosciuti in Italia non hanno questo pubblico e non possono avere nemmeno questa attenzione o questa pubblicità. È molto difficile che arrivino al, non dico al grande, ma al medio pubblico. E poi è naturale che noi viviamo in una società in cui c'è una normalità, una medietà di ascolto, lo si vede dai bestseller, nei libri, certo. A cinema e a teatro, una normalità d'ascolto che, scusi se posso permettermi di dire, abbastanza mediocre come qualità. Quando vai sulla poesia, naturalmente tocchi il 10-15% della popolazione. C'è un'elite, insomma. È un'elite, e non un'elite chiaramente di potere o di soldi, un'elite intellettuale. Bene, noi ringraziamo Vecchioni, a presto. Grazie a voi, grazie di tutto, arrivederci, ciao, ciao. E parliamo ancora di musica, che a forza di CD e hi-fi, di sale concerto ad alta tecnologia, rischia di diventare così perfetta da perdere il suo fascino. Così almeno sostiene un grande direttore d'orchestra, Ingo Metzmacher, che è stato a lungo direttore dell'Orchestra Sinfonica di Berlino e ora ha scritto un libro sul sipario, scoprire e vivere l'opera. Intervistato dalla Frankfurter Rundschau in occasione dell'uscita del libro, Metzmacher ha sostenuto che la musica classica sta perdendo di contenuto e il suo alto messaggio rischia di perdersi. Molte sono le cause di questo impoverimento culturale, ma il direttore, nato ad Hannover nel 1957, punta soprattutto il dito contro l'industria concertistica, che è sempre più avida di musica brillante, pulita, perfetta, suonata in maniera eccellente. Ma cercando questa perfezione, mette in guardia Metzmacher, il rischio è quello di perdere l'essenza della musica, che è proprio l'imperfezione che gli conferisce un fascino sensuale. Salvatore Accardo, uno dei più grandi violinisti viventi, ha accettato di rispondere alle nostre domande proprio su questo tema. C'è un appiattimento dell'esecuzione dovuto, secondo me, alla perfezione che si vuole avere nelle incisioni. Cioè deve essere pulita, insomma, non vogliamo sentire frusci, non vogliamo a sentire parte il fruscio che i colpi bene, di tosse nella sala. Ma io so perché ho esperienza di tutto questo, che molte incisioni di oggi sono veramente solo tecnologiche. Per esempio con degli apparecchi che ci sono oggi si può addirittura migliorare l'intonazione, si può addirittura far andare insieme due strumenti che non sono andati insieme durante l'esecuzione, e questo è un appiattimento dell'interpretazione. E quello che diceva lei, cioè l'esecuzione deve essere, secondo me, viva con le sue imperfezioni, perché ci sono, certo, imperfezioni, chiaramente. Ecco, ma quindi, questo purtroppo sì, è colpa delle case discografiche. È colpa quindi questa industria di cui parla Metzmacher, no? E questa, esattamente. Quindi non è tanto l'esecutore, il musicista singolo, che anzi è quello interpreta anche in maniera soggettiva il brano musicale, ma è proprio, certo, questa correzione fatta al computer spesso. Questa correzione fatta al computer. A questo proposito mi ricordo che mi diceva Oistrakh, che lei sa chi è stato, David, certo, Oistrakh, David è stato Oistrakh, uno dei più grandi violinisti di tutti i tempi, e già negli anni che io ho conosciuto David Oistrakh, cioè erano gli anni, fine anni 50, anni 60, lui mi diceva che era incredibile quello che stava succedendo, nel senso che se lei ascoltava negli anni 40, negli anni 50, un'incisione di Heifetz o di Milstein o di Grumiot o di Oistrakh stesso, o di Menuhin, eccetera, dopo 3 secondi capiva lei chi era, stava suonando. Certo. Oggi lei può ascoltare, oggi già allora, però già negli anni 60, si ascoltavano alcune incisioni di io parlo di violino perché il violino è lo strumento che conosco di più, certo, e so di più per tutto quello che riguarda appunto il mio strumento, e si ascoltavano dei violinisti e non si capiva chi fossero. Certo, invece adesso c'è questa omogeneità, ma l'omogeneità non è anche legata poi al fatto che queste sale in cui si ascoltano i concerti e in cui si fanno le registrazioni, questi auditorium vengono costruiti poi da famosi architetti e sono poi fatti quasi in serie in tutte le città del mondo. Una volta, non so, uno stesso opera, uno stesso brano musicale, una stessa sinfonia eseguita magari a Budapest o a New York avevano un suono diverso, un'acustica diversa, vero? Assolutamente sì, assolutamente sì. Io devo dire che di tutte le sale che sono state costruite negli ultimi 10-15 anni, c'è solo una sala che ha un proprio suono ben definito, che è quella dell'Auditorium di Roma, fatta da Renzo Piano, mentre altre sale moderne, a parte il fatto che sono veramente orrende dal punto di vista estetico, acustico, sì. Ah, sì, sì, sono orrende dal punto di vista acustico perché sono fatte non per la musica ma sono fatte per altre cose, e per cui sono piene di moquette. E la moquette, noi sappiamo che ammazza il suono. Eh sì, infatti per esempio alla Scala l'hanno sostituita col parquet. Assolutamente, insomma, il suono bello te lo dà il legno, perché il legno fa parte di una cassa armonica, no? Una sala fatta di legno è come se fosse una cassa armonica del proprio strumento, del violino. Il violino è di legno e la cassa armonica di legno fa in modo che il violino suoni come vuole, come deve suonare. Bene, noi ringraziamo il maestro Accardo, grazie, auguri per il suo lavoro. Grazie a lei, grazie, a presto. Il meglio della finestra sul cortile si chiude qui per oggi. Un ringraziamento in redazione a Vittoria Mussini, in regia a Fabio Cantadori. E prima di lasciarvi, un messaggio di buon anno da Riccardo Chiaberge. Alla settimana prossima ancora con il meglio della finestra sul cortile.